in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che oggi hanno titoli abbastanza diversi, anche perché Repubblica e Corriere hanno due interviste fiume, possiamo dire, Repubblica all'ex premier Matteo Renzi e il Corriere a Berlusconi. Ma cominciamo dal Sole 24 Ore come sempre, perché qui il titolo è molto economico e c'è un'attesa per quello che succederà domani quando apriranno i mercati per tante questioni. La prima è quella che ci portiamo dietro da tanto tempo, quella delle banche, ma anche quest'ultimo, la reazione che avremo sulle borse a quest'ultimo downgrade che è arrivato da un'agenzia di rating canadese, la DBRS. E quindi il titolo: borsa, banche e bond al test del downgrade. Ci sono molte analisi, anche perché sapete, fino adesso, in queste prime due settimane di contrattazioni, le borse sono andate tutte molto bene, lo riassume il Sole 24 Ore in prima pagina. Prosegue l'inchiesta del Sole 24 Ore sui 10 anni, tutto sommato, di crisi, perché indichiamo il 2008, ma innanzitutto era la fine del 2008, quindi possiamo anche considerare tutto il 2008 un anno di crisi, ma sappiamo che in realtà era iniziata probabilmente anche prima, quindi siamo vicino ai 10 anni di crisi. Paolo Brico oggi ci racconta la manifattura resiliente e la chance di Industria 4.0, cioè quella, a parte Industria 4.0 è anche il nome di un piano del MISE, ma per Industria 4.0 si intende in generale la manifattura trasformata, ma veramente trasformata dalla tecnologia. Come sempre in prima pagina sul Sole 24 Ore alla domenica l'intervento dell'arcivescovo di Chietivasto Bruno Forte, che oggi si intitola I giovani, la Chiesa e i segni dei tempi. La prima pagina del Corriere della Sera, vi dicevo, titolo a centropagina, un virgolettato: non si può votare subito, un virgolettato estratto dall'intervista di Silvio Berlusconi, cui dopo magari leggeremo un paio di domande. Berlusconi che dice: pronto a candidarmi, intese inevitabili se nessuno va oltre il 50%, naturalmente nell'ipotesi di votare con un proporzionale quasi perfetto. Il palchettone, però, quindi il titolo sopra quello centrale e sotto la testata, è dedicato ai provvedimenti presi ieri dal Consiglio dei Ministri, al quale praticamente Paolo Gentiloni è andato direttamente dall'ospedale, dimesso dall'ospedale, è andato a presiedere il Consiglio dei Ministri, che aveva in programma l'approvazione dei famosi decreti attuativi, senza i quali nessuna legge diventa operativa. Questi decreti attuativi riguardano soprattutto le unioni civili, che quindi adesso si sa esattamente come questa riforma funzionerà, per esempio è valido il sì all'estero, e poi c'erano anche decisioni importanti su alcune posizioni apicali di esercito, difesa e carabinieri, che non hanno mancato di suscitare qualche polemica, come vedremo da altri titoli. La Repubblica, vi dicevo, ha l'intervista a Matteo Renzi, anche in questo caso il titolo è un virgolettato della stessa intervista: io, la sinistra e i miei errori, così cambierò il partito. Intervista a Matteo Renzi: brucia la sconfitta, ora nel PD ha identità nuove. Tantissime le domande che gli ha posto Ezio Mauro, ex direttore della Repubblica e ora editorialista. Ve ne leggo un paio, anche perché a Renzi è stato chiesto ancora molto sulla questione bancaria e in particolare dell'MPS, e quindi su questo Ezio Mauro dice: ma lei come ha fatto a dire che MPS è un bell'affare, un brand su cui investire mentre andava a rotoli? Questa è una dichiarazione di circa un anno fa. Ho detto in pubblico quel che ho ripetuto a tutti gli investitori stranieri. Avevamo creato le condizioni per un investimento estero importante, il fondo del Qatar, che ha detto no il giorno dopo il referendum per l'instabilità politica. Non ci sarebbe stata operazione pubblica da 20 miliardi con la vittoria sulle riforme. Quindi Renzi mette sul tavolo delle conseguenze del no alla riforma del suo governo, alla Costituzione, anche la questione MPS. Vi leggo una domanda anche sulla Consip, perché ieri è stato nominato è stato confermato un generale che in realtà è indagato appunto per una vicenda che riguarda la Consip, e quindi Ezio Mauro chiede a Matteo Renzi: c'è ancora la Consip i cui dirigenti agenti sono avvertiti dalle cimici disposte dalla procura di Napoli e le hanno tolte prima che funzionassero. La soffiata, dice l'amministratore delegato, viene dal ministro Lotti, dal comandante dei carabinieri del 7, quello che è stato confermato dal CDM di ieri, e dal comandante della Toscana Saltalamacchia. Non è grave? Non è Giglio, Giglio magico, cioè sarebbe il cerchio, Giglio è il simbolo di Firenze, quindi il cerchio dei più stretti collaboratori di Matteo Renzi. Non è logico pensare che anche lei potesse sapere, visto che suo padre ha legami con l'imprenditore Romeo indagato nell'inchiesta? E Renzi risponde: la mia linea è sempre una sola. Bene le indagini, si vada a sentenza. Noi chiediamo ai giudici di fare presto, sempre. Abbiamo visto polveroni su Temparossa, Penati, Errano, Graziano e non c'è stata condanna. Notizie sparate in prima pagina per le richieste e nascoste per le assoluzioni. Aspetto di vedere la sentenza. Qualcuno ha violato la legge? Si dimostri con gli articoli del codice penale, non con gli articoli dei giornali. E chi ha sbagliato, se ha sbagliato, paghi. Vi ricordo in edicola con la Repubblica come ogni domenica, da quando lo dirige Tommaso Cerno, l'Espresso, quindi ormai da agosto. E la copertina di oggi è dedicata alla questione, che purtroppo non può essere ancora archiviata, della pedofilia nella Chiesa. È un'inchiesta di Emiliano Fittipaldi. Così il Vaticano protegge i preti pedofili. In copertina c'è un prete, un cardinale con una coda da diavolo. E il sommario dell'inchiesta, che poi è in realtà un'anticipazione di un libro inchiesta dello stesso Fittipaldi, cardinali e alti prelati della Chiesa, alcuni vicini a Papa Francesco, hanno insabbiato per anni le denunce sulle violenze sessuali ai bambini. Ecco il libro inchiesta che rivela silenzi, segreti e omissioni. La Stampa ha un titolo ancora diverso legato alla fotonotizia, che è quella di un Barack Obama rilassato in poltrona con i piedi appoggiati su quello che sembra un tavolino davanti al divano, che legge, e il titolo del lungo articolo di Maurizio Molinari, che della Stampa è il direttore, ma che per anni è stato corrispondente dagli Stati Uniti della stessa Stampa, Obama, il sogno incompiuto. Obama infatti si insediò, come tra poco accadrà a Donald Trump, vinse nel novembre del 2008 le elezioni e poi si insediò alla Casa Bianca il 20 gennaio 2009, e oggi ha 55 anni e appunto si cerca di fare un bilancio del suo doppio mandato, quindi 8 anni di presidenza. Vi segnalo sulla prima pagina della Stampa, ma lo trovate anche su altri giornali, questi articoli su Di Maio, che è vicepresidente della Camera ma anche esponente di punta del Movimento 5 Stelle, che di nuovo ha sbagliato un congiuntivo. È veramente un'enfasi esagerata, lo dico io naturalmente, sui giornali a questo, e credo che queste siano le tipiche esercitazioni che forse pensate per mettere in evidenza dei problemi dei 5 Stelle, per esempio con il congiuntivo, fanno sicuramente guadagnare voti ai 5 Stelle, o comunque credo che rafforzino gli esponenti del Movimento 5 Stelle e chi lo ha votato nella critica, nel dire che chi li critica per cose futili. In ogni caso, il Messaggero invece ha un titolo ancora diverso su quella che sta arrivando, pare essere una stretta sulle assenze negli statali. Dopo tutti i dati che sono usciti nei giorni scorsi sul numero abnorme di permessi che ci sono nella pubblica amministrazione, dati a persone che o hanno un certificato di disabilità o hanno certificati per dire che devono prendere dei permessi per curare i disabili che hanno in famiglia, in arrivo nuove regole per visite e analisi, solo permessi a ore. Ci saranno dei controlli dalle ASL all'INPS, perché appunto i dati purtroppo fotografano una situazione di anomalia che va sanata e che naturalmente non deve poi avere degli effetti negativi su chi questi permessi ha tutto il diritto di chiederli, o chi ha un certificato di disabilità perché davvero è disabile. Vi segnalo anche come ogni domenica l'editoriale di Romano Prodi questa settimana è dedicato alla quella che viene definita una crisi in corso, perché la guerra tra la Cina e l'America si può evitare. Sapete che i primi segnali dati da Donald Trump sui rapporti che la sua amministrazione avrà con la Cina non sono incoraggianti, nel senso che non è un clima disteso, ma anzi sono state riaperte alcune questioni importanti da Trump e vedremo quali saranno i primi passi concreti dell'amministrazione. Ricorderete la vicenda della telefonata a Donald Trump alla presidente di Taiwan, che formalmente è parte della Cina, ma scalpitando per più indipendenza, e la Cina non ha visto la Cina di Pechino, il governo di Pechino, il presidente Ping non ha visto di buon occhio questo passo di Donald Trump. E in prima pagina anche una notizia, sempre che riguarda gli Stati Uniti, ma in questo caso i rapporti degli Stati Uniti con la Russia. Ieri Putin ha invitato Trump ai negoziati di pace che si terranno presto per porre fine alla guerra in Siria, e al tavolo ci saranno anche Iran e Turchia, e appunto se Trump accetterà ci saranno anche gli Stati Uniti. Libero ha un titolo molto diverso, e che è poi corredato da un lungo articolo di Franco Bechis, che di Libero è il vice direttore, e riguarda Banca Italia. Quando chiudete Banca Italia? La domanda provocatoria dell'articolo, punto interrogativo appunto, non vede, non sente, non parla. È dannosa, non ha vigilato sull'operazione Monte Paschi Anton Veneta. Sapete che questa è una delle l'acquisizione da parte di Monte Paschi di Anton Veneta per una cifra enorme, che è una delle dei motivi principali per i quali poi MPS è entrata in profonda crisi. Quindi non ha vigilato su questa operazione, non ha prevenuto le altre crisi bancarie ed è anche inutile. Gran parte delle sue competenze sono passate alla BCE, eppure vanta ancora 7.000 dipendenti. E poi un titolo che sconfina un po' nel turpiloquio, però ve lo leggo letterale perché questo è, ed è MPS, sputtana, solo i poveri cristi. Questo è il titolo di Libero per spiegare come, sapete, c'è la questione di non divulgare le liste con i nomi dei debitori di MPS, ma in realtà gli insolventi, scrive Libero, gli insolventi VIP continuano a fare la bella vita, le famiglie in crisi prendono la casa. Il riferimento è al fatto che sul sito delle aste giudiziarie si possono trovare le case che appunto vanno all'asta, che appartengono a persone che sono indebitate e non possono restituire il loro debito a Monte dei Paschi di Siena. Ci fermiamo un attimo però per una breve pausa, avremo anche qualche aggiornamento sul meteo e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. L'Unità è tornata in edicola, però si legge proprio in alto, accanto alla testata, meno 17. Perché? Perché mancano 17 giorni al 1° febbraio, quando l'Assemblea dei Soci dell'Unità SRL deciderà la ricapitalizzazione o la messa in liquidazione. Ci sono tutte le lettere dei direttori a pagina 10. Segnalo che anche Zio Mauro ha fatto una domanda a Matteo Renzi sulla vicenda dell'Unità. Avete sentito anche qui a Radio 24, Oscar Giannino e Alessandro Milan hanno avuto ospiti il direttore Sergio Staino, che ha spiegato come non senta l'ex premier da moltissimo tempo, dal suo insediamento. In realtà Ezio Mauro chiede a Matteo Renzi nell'intervista di Repubblica: dica ai compagni che non lascerà morire l'Unità, può dirlo? E Renzi risponde: faremo di tutto. Vedrò Staino e gli editori la settimana prossima, ma se il giornale vende poco, davvero pensiamo che la colpa sia del segretario del partito? Lavoreremo a una soluzione con umiltà e buonsenso. Questo dice Renzi, mentre sull'Unità, che dedica il titolo principale all'approvazione delle unioni civili con il titolo Un paese più giusto, unioni civili via le discriminazioni. C'è anche un consueto editoriale della domenica di Walter Veltroni. Voi pensate, ex direttore dell'Unità, magari spende due parole sul futuro dell'Unità? No, si esercita su un libro uscito di Sabino Cassese, un libro appena uscito, La democrazia e i suoi limiti. Non una parola, appunto, da un ex direttore dell'Unità, nonché ex segretario del PD, sul giornale del partito. E vabbè. Il Giorno ha un titolo ancora diverso, incentrato, se volete, legato a quello del Sole 24 Ore, incentrato su questo rating dell'agenzia canadese. Rating: il grande imbroglio. Italia declassata proprio mentre gli Stati Uniti incastrano Moody's per le pagelle gonfiate. Sapete che la notizia di ieri è che appunto l'agenzia Moody's è stata multata, ed è solo la terza è la terza in ordine di tempo che paga multe salate, per aver sostanzialmente dato dei rating molto generosi alle banche e alle istituzioni che concedevano, istituzioni finanziarie che concedevano, società finanziarie meglio, che concedevano mutui e soprattutto subprime, cioè i mutui sui mutui sui mutui, benché non ci fossero le garanzie. E questa è stata una delle cause del crack Lehman Brothers e di tutta la crisi di cui abbiamo parlato ormai, il mondo, una crisi economico-finanziaria che dagli Stati Uniti si è estesa a tutto il mondo. Ma la fotonotizia è dedicata a Melania Trump perché sapete, si è in realtà dalla campagna elettorale, alcuni stilisti americani si hanno detto che non avrebbero vestito Melania Trump perché è in contrasto con le idee del marito. Il titolo un po' scherzoso di Melania Trump fotografata, che è una bellissima donna, ex modella infatti anche, fotografata davanti a una bandiera americana, qualcuno vesta la First Lady. Gli stilisti snobbano Melania, ma ieri qualcuno durante le ieri sono iniziate, in realtà sono iniziate venerdì sera le sfilate qui a Milano della moda uomo per l'autunno-inverno 2017-2018. C'è stata anche la sfilata di Emporio Armani. E lo stilista ha detto, a domanda di qualcuno che gli chiedeva: ma lei, Melania Trump, la vestirebbe? Lui ha detto sì, perché no? E Avvenire Aleppo grado zero. L'Avvenire è l'unico che titola su quello che sta succedendo in Siria. Abbiamo detto, ci si appresta ad avere un vertice di pace ad Astana, in Kazakistan, organizzato da Putin e al quale sono invitati per ora l'Iran e la Turchia, ma anche gli Stati Uniti, come abbiamo visto, gli Stati Uniti di Donald Trump, non gli Stati Uniti di Obama. Però in realtà l'Avvenire pubblica proprio un reportage da Aleppo, che è la parte est è distrutta, ora si prova a ricominciare. Pensate che sono 4 anni che la città è di fatto sotto assedio, e l'Avvenire è anche l'unico giornale che mette una fotonotizia sugli immigrati. Da una parte è intitolata Sommersi e Salvati, perché da una parte ci sono decine di dispersi su un barcone che proveniva dalla Libia, e poi ci sono anche tutti i migranti che, soprattutto nei paesi dell'Est Europa, in questo momento stanno anche morendo per il freddo, e comunque vivono in condizioni, ma anche in Italia, perché l'onda di gelo, sappiamo, ha investito anche l'Italia. Il giornale, un titolo ancora diverso, che prende spunto da un dossier sugli imam. Sapete che ieri c'è stata una seconda espulsione di un tunisino che era accusato appunto di essere un cattivo maestro dell'Islam, perché si faceva la sua missione era radicalizzare i giovani musulmani, specie quelli in carcere. Però ci sono anche altri cattivissimi maestri, e il giornale spiega nomi e storie dei 26 predicatori più pericolosi nelle nostre carceri. Anche il giornale ha un approfondimento sugli scivoloni sul congiuntivo di Maio. E poi una fotonotizia dedicata a Saviano, perché Roberto Saviano, l'ultimo libro di Roberto Saviano, La paranza dei bambini, che è stato tra l'altro uno dei libri più venduti del 2016, è stato inserito da un liceo di Forlì nella lista obbligatoria dei libri da comprare. E Luigi Mascheroni, ma appunto, pubblica una critica a questo. Tra l'altro vi segnalo che Roberto Saviano oggi sulla prima pagina di Repubblica, dopo che settimana scorsa era stato intervistato dalla stessa Repubblica con la quale collabora come editorialista di punta quella terribile sparatoria nei vicoli di Napoli, per la quale ieri ci sono stati 4 arresti e nella quale era rimasta ferita anche una bambina, su Repubblica si esercita su questo e sull'episodio e prendendo spunto appunto dagli arresti che sono arrivati ieri. Il manifesto La cortina di freddo. Il titolo è appunto riferito a quello che vi dicevo: l'emergenza gelo si abbatte sui migranti, in migliaia sotto la neve dalla Grecia all'est Europa. E il premier ungherese Orban ordina: li arresteremo tutti, compresi i richiedenti asilo. A Firenze la protesta dei profughi caricati dalla polizia, naufragio al largo della Libia, 8 morti e molti dispersi. La verità, siccome ieri sono stati approvati anche decreti attuativi della buona scuola, la verità si concentra appunto sulla riforma della scuola. La ministra che mentì sulla laurea, in riferimento a Valeria Fedeli, vuole imporre la laurea negli asili. questo dovrebbe essere appunto parte della riforma, e la verità, gioco facile appunto a sottolineare questo apparente paradosso, cioè che una, ricorderete, la ministra diceva sono laureata, in realtà poi la spiegazione è che il titolo che ha Valeria Fedeli all'epoca in cui l'ha preso non era una laurea, ma oggi sarebbe una laurea breve, quindi questa leggerezza nell'indicarla laurea senza spiegazioni nel suo curriculum. E ora però parte di questa riforma è che anche appunto per insegnare negli asili ci vuole una laurea. Il Fatto Quotidiano ha un titolo molto critico sulla vicenda che dicevamo del generale, il generale che è al vertice dei carabinieri, che ieri è stato confermato anche se è indagato appunto in questa inchiesta. Quindi il Fatto Quotidiano, carabinieri, due punti, se sei sospetto non entri, ma puoi sempre fare il comandante. E vi leggo le prime righe dell'editoriale di oggi di Travaglio, perché io veramente mi stupisce sempre il piacere estremo con il quale Marco Travaglio critica tutto, e oggi ha trovato il modo di dire la sua su questa nomina, che sicuramente è molto contestata e non solo da lui, ma l'ha messa insieme comunque alla notizia di Gentiloni dimesso dall'ospedale. Queste le prime righe dell'editoriale di Travaglio. Gentiloni dimesso dall'ospedale è un'ottima notizia. Il generale del 7 non dimesso dal comandante dei carabinieri, sebbene indagato per rivelazione di segreto e favoreggiamento a chi avrebbe truccato il più grande appalto d'Europa, è una pessima notizia. Perché metterle insieme? Non lo so, non capisco, anche perché credo che al di là della sua opinione su questa notizia, la seconda pessima, ce lo deve spiegare, che le dimissioni di Paolo Gentiloni sono una buona notizia. Certo che sono una buona notizia quando una persona che ha avuto un intervento d'urgenza viene dimesso. Vabbè, e con questo però ci lasciamo un attimo per la pausa sul traffico, e poi oggi non abbiamo tantissimo tempo, ma naturalmente andiamo a vedere i supplementi domenicali. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ci ritroviamo per l'ultima parte della nostra rassegna stampa, e vi avevo promesso una lettura parziale, perché è un'intervista anche questa su due pagine dell'intervista che Francesco Verderami ha fatto a Silvio Berlusconi sul Corriere. Vi segnalo però prima anche da Nova, il supplemento che trovate alla domenica all'interno del Sole 24 Ore, due pagine su come la tecnologia e i robot stanno entrando in ospedale. Molto interessante, parlavamo di industria 4.0, ma anche la tecnologia ha sempre più importanza anche nella medicina. E poi vi segnalo un articolo, secondo me bellissimo, di Pierangelo Soldavini, che ha parlato con il calligrafo Ewan Clayton, che dice: il valore della scrittura manuale personalizza e abilita l'apprendimento. Vi dicevo l'intervista di Silvio Berlusconi, alle pagine 8 e 9 del Corriere, vi leggo queste domande. Chiede Verderami: quanto ritiene probabile la sua candidatura alle prossime elezioni? E Berlusconi risponde: sono ottimista di natura e nonostante tutto credo nella giustizia, perché sapete che si attende la sentenza della Corte Europea che potrebbe ridare a Berlusconi la possibilità di candidarsi. Quindi la ritengo piuttosto probabile, assolutamente auspicabile nell'interesse della democrazia dell'Italia. Vi leggo l'ultima domanda che riguarda il Movimento 5 Stelle. Presidente, se alla fine di questa ventennale sfida tra centrodestra e centrosinistra alle prossime elezioni vincesse Grillo? E Berlusconi risponde: sarebbe ovviamente una iattura per il paese, ma non accadrà. Gli italiani, quando sono stati chiamati a esprimersi con il voto, hanno sempre dimostrato grande buonsenso. In questi anni la classe politica, non solo quella di sinistra, ha fatto molto per spianare la strada a Grillo, ma gli italiani sono più maturi dei politici che li rappresentano. Peraltro i grillini, con i loro comportamenti e dove hanno tentato di governare come a Roma, hanno fatto e stanno facendo di tutto per aprire gli occhi agli elettori. Sì, però ricordiamo che gli ultimissimi sondaggi danno i grillini sempre in testa, non stanno perdendo voti, anzi li stanno guadagnando. Ma veniamo ai supplementi domenicali. Cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Giorni belli e parte da una citazione di Virgilio. I giorni più belli sono i primi a fuggire per i poveri mortali. È il grande Virgilio a ricordarci questa verità che tutti sperimentiamo. La felicità è esile come una ragnatela, è fragile come un vetro. Gli orologi misurano un tempo oggettivo che esiste solo per gli scienziati. Come persone viviamo invece una cadenza temporale soggettiva, per cui appunto stare un'ora insieme alla persona amata dura un istante e un'ora di insonnia notturna sembra infinita. Ecco perché è importante la qualità della vita e non tanto la quantità. Ecco perché è necessario il realismo per cui, sempre invece per usare Seneca, dobbiamo essere consapevoli che quotidie morimur, cioè ogni minuto che passa, ci conduce verso la morte. Ecco perché è significativo coabitare con la coscienza del limite e perciò non sprecare mai ogni frammento di vita e non lasciarci catturare dall'illusione di avere sempre spazio per le grandi scelte e per le opere giuste. I petali del tempo, anche i più colorati, cadono incessantemente. Il titolo però principale della copertina parte da un articolo di Massimo Bucciantini che recensisce due libri sull'illuminismo di Gerardo Tocchini. Il titolo è Il re smetta di dare spettacolo. Gli illuministi francesi mossero guerra, musiche, parole e immagini create per trasformare il popolo in complice inconsapevole di un regime dispotico. Il memorandum invece del nostro direttore Roberto Napoletano, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, è dedicato alle librerie. In particolare è una battaglia in difesa delle piccole, medie e grandi librerie che sono indipendenti e vogliono restarlo, che il direttore ha intrapreso da molto tempo. I librai continuano a scrivergli, in questo caso è Pasquale Guerra, un libraio di Perugia, dove tra l'altro il direttore andrà il 27 di gennaio proprio a vedere questa libreria, l'altra libreria, Il Professore e lo Spirito Forte di Perugia, perché questa è una delle librerie che resiste. E vi segnalo, visto che abbiamo parlato tanto di Movimento 5 Stelle, la lunga recensione di Claudio Giunta al libro di Alessandro Battista, che è una sorta di biografia so far. È molto giovane, ma ha già scritto appunto la sua biografia, un racconto di quello che ha fatto fino adesso, che si intitola Testa in su, investire in felicità per non essere sudditi, un libro pubblicato da Rizzoli. Il titolo della recensione è Retorica italiana a strati. Però Claudio Giunta dice: a testa in su è un libro utile per capire cosa è successo in questi anni, ma che però si esprime in cliché di ogni tipo. Questo è il parere di Claudio Giunta. Vi segnalo anche una sorta di obituary di Zygmunt Bauman, il grande sociologo e studioso, è morto questa settimana. Era nato nel 1925 e viene sempre ricordato per questo suo uso dell'aggettivo liquido, perché parlava di società liquida, e quindi il titolo del ricordo di Remo Bodei è La modernità liquefatta. Protagonista delle tragedie del secolo breve, sapete, così viene chiamato il secolo che ci siamo lasciati alle spalle, ha esaminato in maniera inedita l'allentarsi diffuso dei legami sociali. E poi, come ogni domenica, siamo al numero 12, le quattro pagine dedicate ai lettori più piccoli, C'è qualcuno che sa leggere, così si chiamano, e il titolo principale è di Roberto Casati, che è un filosofo della scienza. Quante parole ci mettiamo in testa? E il riferimento è un'antica questione, in realtà, è utile imparare a memoria, tabelline o poesie, e quindi a cosa serve saper recitare la Vispa Teresa? Imparare a memoria non è un allenamento con cui si esercita un muscolo, ma serve a fissare tante idee nel magazzino della mente, grazie alle quali si fanno i collegamenti, le analogie e i ragionamenti. Sapere le tabelline è fondamentale, ad esempio, per dimezzare i tempi nelle moltiplicazioni. La copertina della lettura del Corriere della Sera, affidata a Claudia Losi questa settimana, e poi vi segnalo quattro pagine interessantissime di approfondimento sull'Africa, che ci riguarda comunque, perché anche solo per la questione dei migranti, capire che cosa sta succedendo veramente in questo grande continente che tendiamo a considerare come appunto un'unica realtà, quando in realtà ci sono più di 50 paesi e con tantissime differenze al loro interno e tra essi. E quindi l'inviato ad Algeri Michele Farina, che ci racconta 600 milioni di abitanti senza elettricità, la ricchezza prodotta inferiore al PIL del Brasile, il rinascimento bloccato, il futuro già finito. E i leader che eleggeranno tra pochi giorni il nuovo presidente dell'Unione Africana, divisi e litigiosi. Da una parte l'asse storico Algeria-Sudafrica, dall'altra Marocco-Ruanda. E con tantissimi approfondimenti appunto anche su queste alleanze. E poi altre due pagine, in questo caso di Alessia Rastelli, che il titolo del suo articolo è «Io sono la lingua che parlo, il riscatto dell'Africa inizia così». È una lunga intervista a Nuji Vationgo, che scrive in un idioma kenyota ma vive negli Stati Uniti, dove andò in esilio nel 1982. E spiega appunto di avere comunque ancora tante speranze sulla rinascita del suo popolo che abita il Kenya, ma di tutti i popoli africani. Vi segnalo anche due pagine di Maurizio Porro intitolate Dittatura animata, perché sì, ci sono molti film animati in uscita, cartoon anche per gli adulti, e ci spiega Maurizio Porro, hanno definitivamente conquistato il botteghino, e ci racconta anche quali sono i titoli più attesi per il 2017. Robinson della Repubblica, sapete, il nuovo supplemento culturale della Repubblica domenicale, è arrivato al numero 7. La storia di copertina è dedicata agli Stati Uniti, anzi quelli che vengono definiti l'altra metà dell'America. Se guardiamo al voto, gli Stati Uniti sono in effetti divisi più o meno a metà. Chi ha votato Donald Trump e chi ha votato Hillary Clinton. Comincia l'era Trump tra proteste e inviti alla disobbedienza. Però il filosofo che ci racconta questa America, secondo lui, spaccata a metà, che è Michael Walzer, dice: i gesti non bastano, dobbiamo interrogarci sui compiti della sinistra. E poi un articolo di Michele Serra che dà il bentornato al vecchio Linus. Infatti il mensile ritrova il formato originale dei tempi del suo storico direttore Oreste Del Buono sotto il nuovo direttore Pietro Galeotti, e vedremo appunto se tornerà agli antichi fasti. Vi segnalo, credo sia l'ultima segnalazione che sono in grado di farvi per oggi, una pagina, la pagina 24 di Robinson, che raccoglie alcune degli aforismi più famosi di Richard Feynman, raccolti dalla figlia in un libro, dalla figlia Michelle in un libro. Feynman è stato un grandissimo fisico, ha scritto molti libri di divulgazione, sono uno più bello dell'altro queste citazioni, vi lascio il piacere di scoprirle da soli, e vi auguro ancora una buona domenica da Giulia Crivelli, e ancora un buon anno, in fondo siamo ancora in tempo.